È davvero assurda la questione per cui, se non ho una scusa per fare qualcosa, non la faccio. Voglio dire, se voglio di fare una passeggiata, non ho bisogno di avere un cane da portare a spasso. Se voglio fare un giro per vedere la mia città, non devo per forza avere un ospite a cui mostrarla. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:06, 7 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Era lo spiazzo di fianco al K2, quello all'incrocio delle vie che portano a destra verso Gagliate e a sinistra verso Novara. Quello era il posto in cui mi incontravo con gli amici del mio paese. Era il tempo in cui la macchina era un oggetto distante e inarrivabile. Il motorino era solo una speranza e la bicicletta di fatto era l'unico mezzo di trasporto. Novara all'epoca e per quel mezzo di trasporto era troppo lontana. A Gagliate c'era una sala giochi che raggiungevamo in 20 minuti, più o meno. E poi c'era il Varallino, quando era periodo di giostre. E sempre prima e dopo, all'inizio e alla fine della serata, il nostro posto era lo spiazzo vicino al K2. Il K2 era un bar. Era un bar che però faceva anche gelateria e poi locale notturno, più o meno. Di quelle cose che per fare un po' tutto lo faceva male. I gelati erano cattivi, i cocktail imbevibili, e il resto era tutto un po' stantio. Io ho scoperto solo qualche anno dopo che il K2 non era solo il bar del mio paese, ma era una montagna himalayana di 8000 metri, che è la seconda più alta dopo l'Everest. Insomma, una sera verso mezzanotte, era estate, eravamo in 4 o 5, eravamo lì in attesa che arrivasse l'ora di andare a casa. Davanti al K2 passa un'auto dei carabinieri, una Ritmo, di quelle blu, con la striscia rossa. Noi la guardiamo passare e dopo pochi metri inchioda, fa retromarcia e scende un signore in divisa, alto, di circa 50 anni. Ci guarda con una aria minacciosa e ci dice: chi ha detto caramba? Sono passati credo 20 anni. Io torno a Roventino una volta al mese, più o meno, e passo sempre da lì, da quell'incrocio, perché ci arrivo dall'autostrada. Il K2 c'è ancora, però non si chiama più così. E lì di fianco, per me, ogni volta che passo, c'è sempre quel carabinieri che scende dalla Ritmo, sta in piedi e chiede: chi ha detto caramba? Ci sono molti posti sparsi nel mio paese, ovviamente, o nella mia campagna attorno, o a Novara, che raccontano alcune cose della mia vita, anche le più piccole come questa, anche le più insignificanti. Ognuno di noi potrebbe fare una specie di mappa dei luoghi della sua vita, una sorta di itinerario che ripercorre le tappe più o meno importanti dei nostri anni. Ecco, oggi vorrei proprio disegnare una mappa come questa, una mappa composta dei luoghi più significativi della vita che avete vissuto. Me ne basta uno, che sia una piazza, una strada, un edificio o anche un luogo in mezzo al niente che però racconta di voi qualcosa che alla fine nemmeno voi riuscite a raccontare in maniera migliore. Ecco, io oggi sono qui. E il numero è sempre quello, è 80024 0024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666 per mandare sms in diretta. I luoghi di cui vi parlo sono davvero i luoghi più svariati, non ho per forza bisogno di una scogliera picco sul mare o di una spiaggia incantata da cui si vede la luna di sera. No, mi basta proprio un cortile, mi basta una panchina, mi basta una lurida periferia, per citare qualcuno di là dal vetro. O come scrive Mauro, i campi di calcetto di Quinto Sole. Quinto Sole è un posto in fondo a Via Ripamonti, a sud di Milano, dove è capitato anche a me di andare a giocare a calcetto e credo anche con Mauro qualche volta. Marco, Scandicci. Scandicci è un paesino sopra Firenze. Per una miriade di coincidenze, quella cittadina a mezz'ora da casa mia è stata scenario di molte scelte, vita, amore, amicizie, eccetera, eccetera. Francesca. C'è un casermone abbandonato, una vecchia fabbrica sulla spiaggia, ormai a pezzi. Ci andavo con mio papà, al mare. Ci torno quando voglio restare da sola e se ho bisogno di pensare. Mi calma quel posto, tutto torna a scorrere più facilmente quando sono lì. Oppure Giuseppe, appunto, luoghi che non esistono più, o luoghi invece di villeggiatura, come per Giuseppe, il campeggio Valtenesi, sul lago di Garda, teatro di tutte le mie estati. Amici, ragazze italiane e straniere, ci teneva Giuseppe. Ragazze italiane e straniere. Per far vedere che l'italiano, il trentino è un po' internazionale. Francesca, i vicoli di Trastevere, per Francesca è tutta Roma, i vicoli di Trastevere, Ponte Sisto, Piazza Trilussa, la passeggiata di via Monte Caprino, la mia adolescenza trascorsa tra la via di Prati, la domenica a Porta Portese. Sandro invece, per Sandro è l'argine del Po, al mio paese, che non so quale sia, però credo che sia sul Po. da cui l'argine del Po. Grazie Sebastiano. Ci giocavo a calcio con gli amici sulle banchine dell'argine, da bambino. Barbara, i giardini della ghetto dell'Euro. Poi ce n'era una, ecco questa qua. Irena, il Vrao, Atene, sopra l'Acropoli. Un posto dove nella gioventù si andava con amici e una chitarra e si passavano le notti d'estate cantando e suonando fino all'alba. Cos'è? Qualcuno sa cos'è il Vrao? 349-238-6666. Credo che sia un luogo sopra l'Acropoli di Atene. Lo dice Irena. Irena è... sopra l'Acropoli c'è l'edificio del tempio. Sto dicendo delle robe, ragazzi, che se uno fosse stato ad Atene in vita sua. 800240024 349-238-6666. Io in questo periodo sto facendo un po' un giro dei luoghi della mia vita, anche se non sono della mia infanzia più lontana, sono quelli degli ultimi anni vissuti a Milano. Lo sto facendo perché ho un ospite in casa, è un ragazzo tunisino, si chiama Samir, e visto che è un periodo un po' difficile, ogni tanto mi piace portarlo in giro con me. Un po' per non pensare a Tbilisi, un po' per non parlarne in casa. Comunque, ogni tanto prendo la Vespa, carico Samir e lo porto in giro per Milano. Con la scusa di portare lui, mi faccio dei gran giri pure io, che è una cosa che non accade mai. Ed è veramente assurda questa questione, per cui se io non ho una scusa per fare qualcosa, non la faccio. Cioè, come se la semplice voglia di farla non mi mettesse nelle condizioni di farla e basta. Voglio dire che se ho voglia di fare una passeggiata non ho bisogno di avere un cane da portare a spasso, no? Se voglio fare un giro per vedere la città, non devo per forza avere un ospite a cui mostrarla. Eppure non è così. Nella mia testa, se salgo sulla Vespa e giro per la città, mi sembra di perdere tempo. Se salgo sulla Vespa è perché devo andare da qualche parte, per un motivo ben preciso. Ecco, credo che avere bisogno di una giustificazione per fare qualcosa che ci piace è la più terribile delle conseguenze dell'illuminismo. Vabbè. Forse ho esagerato, però insomma avete capito cosa intendo. Quindi ieri, con la scusa di Samir, mi sono fatto un giro per Milano, di notte. L'aria ormai è dolce la sera, basta un giubbottino e una sciarpa leggera e Milano in Vespa è splendida. Partiti da casa abbiamo fatto Corso San Gottardo e Porta Ticinese, fino a Piazza Vetra, chiamato anche il Parco delle Basiliche. Samir aveva fame, ci siamo presi due panini bresaola e caprino. Poi lui si è accorto che c'era una tettoia in legno, con dentro una cartina in basso rilievo. Una cartina che raffigurava tutto il Parco delle Basiliche. Mi ha detto che sta cosa di Milano per lui è inquietante. Il fatto che appena ti giri c'è sempre un cartello che ti dice dove sei. Si è messo a studiarlo, il cartello, e mi ha chiesto se sapevo chi lo avesse fatto. Io sono sceso dalla Vespa, mi ci sono avvicinato per capire se era fatto a mano o in maniera industriale, e mi sono accorto che no, che era proprio fatto a mano. Samir era sorpreso, era incuriosito dal fatto che ci fosse una persona che fa questo di lavoro. Ecco, questa cosa del lavoro lo incuriosisce sempre molto. Forse per il fatto che vorrebbe trovarne uno qualsiasi. Quindi sarebbe disposto a inventarselo lui, un lavoro. Insomma, io mi sono messo a leggergli quello che c'era scritto. La zona un tempo era solcata dalle acque di un fosso maleodorante, per via delle molte botteghe di conciatori, che si metteva nella vicina roggia chiamata Seveso. Era una zona della città tradizionalmente molto frequentata, anche sede di roghi, impiccagioni e pubblici supplizi. Il Parco delle Basiliche si chiama così per la vicinanza della Basilica di San Lorenzo e della Basilica di Sant'Eustorgio. La sua storia inizia nel 1934, quando il piano regolatore prevede di riqualificare dei terreni paludosi nel retro di San Lorenzo e abbattere alcuni edifici che circondavano la basilica, creando l'attuale spazio tra essa e le omonime colonne romane e la Piazza Vetra, sul retro. Samir, quando ho finito, ha riattaccato con la storia del lavoro, che lo sconvolgeva il fatto che di mestiere ci fosse qualcuno che facesse piantine artistiche per parchi. Abbiamo finito il panino e siamo saliti in Vespa. Non avevo idea di dove portarlo, allora ho pensato semplicemente di percorrere le vie che mi piacevano di più. Via Molino delle Armi, Sant'Ambrogio, San Vittore e il carcere. Piazza Conciliazione, poi dritto, verso Parco Sempione. Il parco era ancora aperto e ci abbiamo passeggiato per mezz'ora. Lì Samir mi ha raccontato della sua famiglia, del suo futuro e della voglia di costruire qualcosa. Poi mi ha detto che c'era una cosa, mi ha detto una cosa che non mi aspettavo. Me l'ha detta quasi a bassa voce, come se ne vergognasse. Mi ha detto che la cosa che lo amareggiava di più era il fatto che non si stupiva più di niente. Dopo quello che aveva lasciato, dopo il viaggio che aveva fatto, ora non si meravigliava di nulla. Io allora ci ho pensato un po' e in un attimo mi sono ricordato che Milano è una bella città perché ha mille risorse e molte sono a disposizione di tutti, anche di notte, anche gratuitamente. Quindi l'ho guardato e gli ho detto: ok, ci provo io, ti porto al Palazzo della Ragione. Palazzo della Ragione è già il nome, è tutto un programma. Pare che da lì si amministrasse la giustizia nel Medioevo. Giustizia, ragione, ragione e giustizia. Il Palazzo della Ragione sta tra Piazza Duomo e Piazza Cordusio, in quella vietta lì, quella sulla destra. È una specie di loggia molto antica rispetto a tutti gli edifici della strada. Di sotto c'è qualche bancarella e sempre dei ragazzi che se ne stanno lì, ad aspettare qualcosa. Tutto intorno a un'edicola, un negozio di abbigliamento, una gelateria, un negozio di scarpe da tennis e McDonald's sulla destra. Ho parcheggiato la Vespa, siamo andati sotto il porticato. Samir mi faceva un sacco di domande e io non sapevo rispondere a quasi nessuna. È stato uno di quei momenti in cui mi sarebbe piaciuto avere a fianco qualcuno che mi spiegasse. Tipo la Divina Commedia, sì. In quei momenti vorrei avere un Virgilio che mi portasse in giro a spiegarmi le cose. Almeno sarei un po' più consapevole di tutto quello che mi circonda e che invece normalmente mi passa sotto gli occhi senza lasciare segno. Perché alla fine credo che sia solo così che certe cose ti rimangono in testa. L'unica cosa che sapevo l'altra sera era il motivo per cui avevo portato Samir, con la speranza di stupirlo un po'. Era la questione dell'eco. L'eco sotto le volte del palazzo. È un fenomeno per cui se una persona si mette faccia ad una colonna e un'altra si piazza dall'altra parte della volta, di fronte a un'altra colonna e ci si parla, la voce corre lungo il soffitto e arriva dritta alle orecchie di chi ti ascolta. Hai la sensazione che la persona non sia di spalle a 10 metri di distanza da te, ma che ti stia sussurrando qualcosa all'orecchio. Allora ho sistemato Samir esattamente di fronte a uno dei pilastri della loggia, con la faccia rivolta verso la pietra. Io sono andato a mettermi dall'altra parte, la parte opposta, e con un tono di voce appena accennato, guardando la colonna, ho detto: mi senti? Samir si è messo a ridere e ha detto: ma è incredibile, com'è possibile? Ecco, in quel momento lì, proprio con quelle stesse parole, com'è possibile? Mi è successo di nuovo. Ho 17 anni, fa freddo, è inverno e ho bigiato la scuola. Da Navarra ho preso un treno, sono arrivato a Milano. Ho addosso un cappotto e una sciarpa. Con me c'è una ragazza, si chiama Letizia, mi trascina per mano. È tutta esaltata perché una sua amica le ha fatto scoprire una cosa e lei vuole farla scoprire anche a me. Mi ha trascinato dalla stazione centrale fino in centro, per mostrarmela. Nessuno di noi ha i guanti, eppure le nostre mani sono calde. Lei mi piace, ma non era la mia fidanzata. La sensazione è un po' quella di un'amica, una di quelle che magari poi perdi per la strada, ma nel momento ti sembra di conoscerla da sempre. Dai, muoviti, mi dice, mi tira per la mano. Arriviamo sotto un porticato. Mi mette di fronte al pilastro dell'angolo, con la faccia rivolta verso il muro. C'è una puzza di piscio di cane, lo penso però non lo dico. Lei ride e va dalla parte opposta, in diagonale. Attacca anche lei la faccia al pilastro e piano, ridendo, mi dice: mi senti? E anche a me viene da ridere. E mi dimentico di tutto, anche della pipì di cane. Ma com'è possibile, richiedo. E mentre lo dico sento che la sua voce che mi risponde attraverso le volte adesso ha un suono nuovo, un suono che mi piace. È la stessa di sempre, però il suono della sua voce ora è più dolce. E non so come sia possibile, visto che ci conosciamo da 2 anni, da quando abbiamo iniziato il liceo, ma sotto queste volte è successo qualcosa. Qualcosa che riguarda la sua voce e riguarda lei. Mi sono girato di scatto convinto di trovarla lì, e invece ci ho trovato un ragazzo tunisino, con l'aria meravigliata. Io per un attimo sono rimasto deluso. Lui no, lui mi sembrava felice. una mappa, quella che stiamo facendo oggi, di tutti i luoghi della vita delle persone che hanno voglia di raccontarle, proprio perché quando si pensa a un luogo della propria vita si immagina sempre appunto la vetta di una montagna, oppure il molo di un porto dove ci si è baciati la prima volta, e invece no, e invece ad esempio l'aeroporto di Linate. Elisabetta, avevo 6 anni, mio papà ogni tanto ci portava, me e mio fratello, la domenica mattina a vedere gli aeroplani. Oppure un posto come uno spiazzo, Valentina, uno spiazzo poco fuori dal paese abruzzese dove ho la seconda casa. Sino agli anni 50 era usato come aia comune. Falò, bracciolate, noti a guardare le stelle, eccetera, eccetera. Oppure posti come i cimiteri. Elisa, qui c'è proprio una storia. In un soleggiato pomeriggio di maggio, la mia insegnante di inglese portò la classe al cimitero degli inglesi di Forlì per leggere e approfondire qualche poema della letteratura ottocentesca inglese. Il prato, il calore del sole, la sua voce, insomma. Da allora, ogni volta che ho bisogno di riflettere, quando devo prendere decisioni importanti, vado al cimitero degli inglesi, che credo che sia quello che si vede proprio entrando a Forlì sulla sinistra dell'autostrada, nel senso che ci sono delle lapidi bianche in fila, e quindi di solito sono le cose che sanno tutti. Ah certo, quello è il cimitero degli inglesi. 800240024 3492386666. Andiamo in provincia di Brescia, da Andrea. Pronto Andrea? Ciao, come stai? Benissimo, tu? Bene, quanti anni hai Andrea? Quasi 28. Ah ok, però hai la voce di un ragazzino. Grazie. Perché hai già paura di sentirti anziano a 28 anni? No, assolutamente. Ah, senti, dimmi qual è uno dei luoghi delle mappe della tua vita. Ma allora, è un piccolo lago che c'è nel comune di Boario Terme, in Valle Camonica. Boario, da cui la famosa acqua. L'acqua, esatto, okay. Il comune dell'acqua. In realtà tutta la Valle Camonica, perché ci sono tantissimi bei posti, sì. Laghi, montagne. Però questo è un piccolo lago che non conosce nessuno. Sì, e sei sicuro di volergli fare proprio pubblicità oggi che poi qualcuno magari comincia ad andarci? Tanto, difficile, tanto è raggiungibile, tu dirai. È abbastanza irraggiungibile, ma è bello perché da bambini ci portavano a giocare. Senti, ma ha un nome questo lago? Lago Moro. Lago, scusami? Lago Moro. Moro. E c'è una strada per arrivarci o è proprio inaccessibile? Sì, c'è una strada, diciamo, è proprio una frazione del comune di Boario dove vivono 20 persone, penso. Ma ho capito, ma senti una cosa però, Andrea, ma sì. Per arrivarci a sto lago Moro, come ci arrivo? In macchina, poi no, in moto. No, ho capito, in macchina o in moto, però partendo da Brescia, seguo per partendo da Brescia, la strada è quella per andare verso Ponte di Legno, Passo del Tonale. Ok, e poi cerco per lago Moro. Dimmi una cosa che ti è successa lì, Andrea. Lì non è successo di tutto. La prima volta che ho bruciato scuola e sono stato beccato da un professore, è stato lì. Da chi scusami, hai bruciato scuola vuol dire che hai marinato? Marinato la scuola. E sì. Sei stato beccato da chi? Da un mio professore. Al laghetto sconosciuto e nascosto? Sì. Ma cosa perché ci facevi? Lui era un professore di educazione fisica. E aveva portato un'altra classe a fare un allenamento per una corsa campestre. Proprio lì, e io ero lì, e io e altri eravamo lì. Cosa ti ha detto? Niente, mi ha detto che se lo aspettava che fossimo lì. Ah, quindi perché era proprio un rito della zona, che se si marina la scuola si va. Ok, cosa fai adesso nella vita, Andrea? Adesso mi occupo di cinema, vivo a Milano da 4 anni. Ti occupi di cinema a Milano? Il cinema si fa a Roma? Sì. Lo so, infatti questo è un problema, però c'è cinema indipendente, milanese, proprio legato al territorio di Milano. Ma fai il regista? No, sono nell'organizzazione di un festival. Dimmi che festival è, dai. Filmmaker. Filmmaker, perfetto, ok. Quando è il Filmmaker? È a novembre. A novembre. In bocca al lupo, Andrea, grazie mille. Niente, grazie a te. Ciao, alla prossima. Adesso la borsa e poi sono qui. Ehi, questa è la mia terra. La mia vera terra. Mein Heimatland. Ma patrie. La mia patria. La mia patria. My home country. My home country. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella fotografia di oggi invece siamo in mezzo a un panorama che sembrerebbe uno dei classici panorami che ogni tanto mi mandate a io sono qui @radio24.it, perché ci sono delle montagne innevate, c'è una valle e ci sono delle case. In realtà non è solo così, perché al centro del panorama, proprio di fatto inciso nella montagna, che non so immaginare dove sia e non ci provo nemmeno, c'è una scritta che non riesco a capire se è incisa nella roccia o se è incisa negli alberi, credo, però si vede nitidamente, è una W e sotto una M. Marco Pessato, 31 anni, Romano di Ezzelino, Vicenza. Dopo una notte di pioggia, a rischiarire del mattino, scopro su un pendio del Monte Grappa, davanti alla mia nuova casa, una scritta, WM. Da una ricerca in internet scopro essere un omaggio alla Vergine Maria dal significato Viva Maria, io sono qui. Cioè, che uno dice, è impossibile, e invece no, Viva Maria. 800240024, andate a vederla questa foto, è sul sito radio24.it, la pagina di Io Sono Qui, e si vede proprio nitidamente una W e una M. Però non capisco, se qualcuno lo sa, non capisco se è incisa nella montagna, se invece è ritagliata nei boschi. Non lo so, se qualcuno lo sa, 349-238-6666, oppure io sono qui, @radio24.it. Arrivano un bel po' di messaggi, i luoghi della vostra vita, una mappa dei luoghi della vostra vita. Il monte dietro casa mia, il Pasubio, il campo di tennis pittorato da noi cugine sul cemento in cortile, il cocomeraio tra Grassina e Ponte a Niccheri, il buco a Casorezzo, le collinette della mia scuola elementare, ora ci vanno i miei figli, noi bloccavamo le nostre compagne di classe per baciarle sulla bocca, Piazza Spada a Fiuggi, il retro il condominio dove abitavo da piccola, ci andavamo a pisciare in compagnia, la cabina telefonica di Orago, facevamo scherzi spettacolari. Andiamo da Marcello, andiamo a Milano. Pronto Marcello? Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te. Ho tante telefonate, quindi le prendo un po' velocemente. Marcello, dimmi qual è il tuo luogo. Luogo è una particolare panchina sul lungomare di Finale d'estate. Ci andavamo armati di chitarra a suonare e andavamo in due. Chi? Tu e? Io e mio migliore amico, e la cosa divertente è che spesso la panchina era ovviamente era occupata già. E quindi ci guardavamo e scattava l'esproprio proletario. Ci mettevamo ai fianchi della panchina, una a destra e a sinistra, cominciavamo a cantare il rock di Capitano Uncino, il povero pensionato. E la gente se ne andava. Certo, questo era un classico. Anche il papà del mio amico Federico, quando voleva sedere su una panchina, si metteva uno di qua, l'altro di là, si cominciava a parlare e la gente un po' se ne alzava. Grazie Marcello, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo in provincia di Monza Brianza. Andrea, ogni volta che sento che c'è la provincia di Monza Brianza mi viene come un nodo allo stomaco. Pronto Andrea? Ciao. Ciao. Sei fermo in macchina? In provincia di Lecco io. Ah, ok, perfetto. E allora perché mi scrivono Monza Brianza? Perché il luogo, diciamo, che sta a cavallo tra le province di Monza Brianza, Lecco e Como. Va bene, manca un po' chi se ne frega, insomma, andiamo al luogo in sé. Non interessiamoci alla provincia. Qual è quel posto? Allora, il posto è l'ultima parte dello strappo di Inverigo, che è sulla strada che porta da Giussano a Erba. È una strada che sale tutta leggermente, poi da Inverigo, che c'è questo paese, impenna un pochettino di più. Dico impenna perché io l'ho fatta per tanto tempo in bicicletta. Si capiva anche dal fatto che lo definivi lo strappo, quindi chiaramente era qualcosa di atletico. Hai fatto delle gare quindi lì? Ma no, più che altro era un posto dove quando ci si allenava lì cominciava la vagare, quelli che dovevano staccarsi iniziavano a staccarsi, il gruppo si allungava e l'ho fatto per tanto tempo, poi ho cambiato lavoro, ho cominciato a fare il musicista, ho dovuto smettere di andare in bici per un po' di tempo e rifacevo la stessa strada al contrario per andare a provare, vedevo su i ciclisti che fino a qualche mese prima o qualche anno prima pedalavano con me su quello strappo e mi veniva un po' di malinconia. Adesso invece che ho ripreso ad andare a pedalare, ho ricominciato a fare lo strappo, siccome ci stavo passando di fianco proprio mentre ascoltavo la tua trasmissione. Hai fatto benissimo. Ti ringrazio Andrea, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Più prosaico, Michele, Piazza delle Erbe per l'aperitivo a Padova. Pizzeria Cagnoni al sabato, raduno dei smanettoni di Pavia, destinazione Penice, adrenalina a mille. Questi sono i biker, immagino. E poi invece, tutt'altro che prosaico, il terminal dove ho trovato mio figlio sparito da 5 anni, Daniela Di Rapallo. A Roma, questo c'entra con le scritte e con le incisioni a mano. A Roma fino al 2001 c'era un omino che scriveva a mano le fermate degli autobus. Andiamo da Lorenzo, provincia di Monza e Brianza, ancora. Lorenzo? Pronto. Pronto. Ciao Matteo, ciao. Tu di dove sei esattamente? Io sono di Biassono e sono qui intorno al parco, dove sono le curve di Lesmo, dell'autodromo. Ok, ed è esattamente quello il tuo luogo? No, assolutamente, è un parco all'Imbiati, si chiamava Città Satellite e c'erano dei bellissimi prati dove io portai una ragazza bellissima di cui mi ero innamorato, sì. Ma che non mi piaceva tanto nel tempo libero, se non aveva mai tempo di far niente, i genitori li vietavano assolutamente qualsiasi cosa, forse mi avevano visto, non so. Sì. Tant'è che quel giorno sulla sua macchina io gli feci un racconto di tutte le cose che non mi piacevano di lei e di quelle che mi piacevano. Lei scese dalla macchina, era la sua, aprì la porta, e ti la aprì. Sì. mi mandò fuori dalla macchina, chiuse la macchina, tirò giù il finestrino e mi disse: la ragazza che vuoi la puoi trovare sulle pagine gialle. Magnifica, e quella donna non l'hai mai più vista, spero. Io la stimo ancora quella donna, ci ho fatto due figli, sono ancora innamoratissimo di lei. Lorenzo, ti ringrazio moltissimo, viva il parco di Limbiate, buona giornata. Grazie, ciao, grazie. Monte Buia a Udine, una collina imboscata, le montagne dietro casa mia, il Pasubio Gialetta, il bar K2. Ah, però a Marlia, Lucca, siamo cresciuti lì. Cioè, volete dirmi che c'è più gente che ha chiamato il proprio bar K2? Emma da Pordenone, pronto Emma? Ciao. Ciao, come va? Benissimo. Quanti anni c'hai, Emma? Sei maggiorenne? Ah, scusami, perché avevo la sensazione che fossi piccola. Va, no, sono 32 anni, sono in macchina, quindi è un bene che tu abbia tante telefonate, perché non posso stare tantissimo. Nel senso che stai viaggiando? Sto andando a fare un'ecografia, una premorfologica. Sei incinta? Sì, con il ragazzo con cui volevo spiegarti la mia mappa temporale. Perché dimmi. È una stazione di un paesino in provincia di Pordenone, di una, sì, una stazione ormai dismessa. Che si chiama? Montescale. Monte Reale, perdonami. Ok. Dove, insomma, mi ricordo questa panchina freddissima. Mi ricordo il bacio del 5 gennaio del 96. Uì, 96, ma è lo stesso ragazzo con cui stai facendo il figlio? Sì, ma guarda, le 9 adesso. Che meraviglia, mi si stanno cariando i denti, tanta la dolcezza che arriva dalla sua telefonata. No, Emma, no, ma ti giuro, sei insieme da 15 anni con lo stesso ragazzo. Sì, neanch'io ci credo, ma vabbè. No, nel senso che del 2011 già è una notizia. E poi il fatto che stai andando a fare un'ecografia premorfologica, cosa vuol dire? Che stai per scoprire se è un maschio o una femmina? Chi lo sa, mi piacciono le sorprese, però. Ma però vorrei capire, lo scopri oppure no oggi? No, non credo. È troppo presto? No, credo che sia, sì, una cosa rutinaria, ma è troppo presto, insomma. Ah, ok, sì. Però cosa fai di lavoro, Emma, nella vita? Insegno. Che cosa? Signore superiori. Oddio, sicuramente ci sarà qualche studente, ma insegno lingue. Hai paura che... Guarda, di solito gli studenti non ascoltano. Sono carinissimi. Sono carinissimi. Sì. Emma, guarda, mi fa piacere. Ogni tanto ricevere una telefonata come la tua, ogni tanto sembra che la vita sia un pochettino più facile. Ti ringrazio per questo. Grazie a te. Buona giornata. Ciao grazie. Ciao. Chiudiamo con un pezzo che è tratto da un libro. Lo so, ve ne ho già parlato, però ogni tanto mi ripeto. Tutti i miei quaderni erano classificati secondo il colore. I quaderni blu, disposti sulla parete sud della mia camera da letto, erano riservati agli schemi di gente che fa cose. Mentre i quaderni verdi, sulla parete est, contenevano mappe topografiche, geologiche e zoologiche. A differenza dei quaderni rossi sulla parete ovest, che utilizzavo per abbozzare l'anatomia degli insetti nel caso mia madre, la dottoressa Claire Lineker-Spivet, richiedesse i miei servigi. Una volta avevo tentato di ordinare tutte le mappe sulla parete sud, ma eccitato all'idea, avevo scordato per un istante che proprio lì era situato l'ingresso della camera. E quando la dottoressa Claire, mia madre, aveva aperto la porta per annunciare che la cena era pronta, la scaffalatura mi era caduta in testa. Mi sedetti in mezzo ai quaderni e ai ripiani di legno, sul mio tappeto, con le sagome disegnate da Lewis e Clark. «Sono morto?» chiesi, sapendo che non me l'avrebbe detto anche se lo ero. «Non permettere mai al lavoro di metterti in un angolo», disse la dottoressa Claire dall'altra parte della porta. La persona che parla in questo brano che vi ho appena letto si chiama T.S. Spivet, è un bambino di 12 anni che nell'arco della sua vita non fa altro che disegnare mappe di tutto quello che lo circonda. Il libro si chiama Le mappe dei miei sogni, è pubblicato da Mondadori e l'autore si chiama Riff Larsen, leggetevelo che non è male. Io ringrazio soprattutto l'ultima persona che mi ha mandato un sms riguardo al WM della foto che trovate su Io sono qui alla pagina di radio24.it. Ciao Matteo, la scritta WM è stata ricavata disboscando un appezzamento di abeti e i vecchi dicono che originariamente volesse dire non viva Maria, ma viva Mussolini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?